Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia, puntata in cui torna anche la poco invidiabile classifica. Vi ha già detto il nostro GR24 degli ultimi dati, sono usciti pochi minuti fa. Allora, salgono di molto il numero di contagiati, a fronte però di un numero che è record nei tamponi, 182.000 tamponi. E sono 19.143, quindi poco sotto i 20.000 i nuovi contagiati. La notizia clinicamente positiva, visto che diamo non solo il numero di contagiati, che sappiamo essere sempre anche legato al numero di tamponi, riguarda le vittime, perché per ora abbiamo solo il dato delle vittime come dato clinico, sono 91 e ieri erano state 136. E adesso vedremo invece gli altri dati, quindi i ricoveri e i ricoveri anche in terapia intensiva. Come sempre, da questo punto di vista, di cosa ci occuperemo oggi? Beh, oltre chiaramente alla poco invidiabile classifica, la notizia in breve, come sempre, da un lato i mercati finanziari, dall'altro anche l'approfondimento alle 18.15. Cerchiamo di capire, al di là di quelle che saranno le nuove misure, ammesso non concesso che vengano varate dal governo, misure ancor più stringenti quanto a, diciamo, possibilità di spostarsi, torneremo a occuparci della manovra finanziaria, perché è una manovra che si appoggia per 15 miliardi ai fondi europei. Alcuni l'hanno definita poco espansiva e quindi poco coraggiosa per dare uno shock all'economia. Dicevo dei mercati finanziari, per quello che riguarda Milano in questo momento. Adesso vi daremo tutti gli aggiornamenti sui mercati finanziari. Per quello che riguarda invece le altre, il numero, come sempre, per SMS e WhatsApp è 349-238-6666. Poi chiaramente si può scrivere anche alla pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo subito con le notizie in breve. Allora, partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Al di là degli Stati Uniti, oltre 75.000 casi, secondo record giornaliero, arrivano notizie non confortanti anche da Parigi, nel senso che mancano i dati di oggi. La Francia ieri ha fatto un nuovo record con oltre 40.000 casi in 24 ore, però il direttore generale degli ospedali parigini ha detto di ritenere possibile una seconda ondata addirittura peggiore della prima. A Bruxelles, in Belgio, si è scoperto che Bruxelles e la Vallonia sono le regioni più colpite d'Europa, mentre il turismo continua a crollare in Spagna, meno 78% gli ultimi dati. Il numero di notti in hotel prenotate dai turisti è crollato a settembre a un meno quasi 80% rispetto a settembre del 2019, un dato anche peggiore di quello di agosto, che ha già fatto registrare un numero di notti prenotate dai turisti a meno 64%. Il turismo rappresenta, ricordiamo, il 12% del PIL spagnolo e nel complesso, nei primi 9 mesi dell'anno, le prenotazioni in Spagna sono crollate del 71% rispetto ai 9 mesi dell'anno precedente. Ancora, nell'area euro, l'indice PMI, di cui spesso ci occupiamo, è l'indice composto che misura l'attività del settore servizi e manifatturiero va a vedere quelle che sono le intenzioni e l'orientamento del responsabile d'acquisto. Allora, sappiamo che, lo diciamo sempre, che la differenza in questo indice è tra più di 50 punti o meno di 50 punti, perché la differenza tra espansione economica e recessione economica è tornato sotto i 50 punti, era da a 50,4 a settembre, a 49,4 nel mese di ottobre. Non è un calo bruschissimo, però va meglio l'indice manifatturiero. Addirittura l'indice dei responsabili di acquisti nel settore manifatturiero è cresciuto da 53,7 a 54 punti e mezzo. Quello che è calato è chiaramente quello dei servizi, che sono i più colpiti da questa seconda ondata in Francia, in Spagna e anche in Italia di lockdown o di, diciamo, coprifuoco parziali. E infatti quello dei servizi è calato da 48 a 46,2 punti. E addirittura dimostrare che c'è una divaricazione in atto molto sensibile tra l'andamento della manifattura, quindi delle imprese, e l'andamento del settore dei servizi, chiaramente colpiti da tutte le restrizioni, lo dimostra anche il dato tedesco. In Germania infatti l'indice dei PMI, dei responsabili acquisti manifatturiero, è salito a livelli più alti da 2 anni e mezzo, 58 punti, che è una buona notizia anche per noi, visto che la Germania è il primo paese per le nostre esportazioni anche di meccanica di precisione e meccanica in generale e componentistica. Però quello dei servizi è sceso da 50,6 a 48,9 punti, quindi al di sotto del livello della soglia di espansione economica. Tradotto e in sintesi, ci sono quasi 10 punti di differenza tra come sta andando il settore manifatturiero quanto a responsabili degli acquisti e il settore dei servizi in Germania, una differenza che più o meno si nota anche in tutti gli altri paesi europei. Veniamo all'Italia. Allora, l'Ufficio parlamentare di bilancio, in una nota, diciamo, sulla congiuntura, dice che dopo un rimbalzo nel terzo trimestre del PIL italiano, che dovrebbe fare un più 12% rispetto al trimestre precedente, c'è il rischio che questo ritorno di fiammata del Covid possa rallentare il quarto trimestre. E addirittura l'Ufficio parlamentare di bilancio si stima dire potrebbe avere una variazione appena positiva, quindi un più 1, un più 0,5% rispetto al terzo trimestre, e questo chiaramente andrebbe a non dico compromettere, ma rischierebbe di compromettere la stima sulla crescita per il 2020, crescita, la stima sul crollo del 2020 attualmente oscilla tra il 9% e il 10%, e dice sempre l'Ufficio parlamentare di bilancio che gli effetti negativi potrebbero andare in caso di recrudescenza da 3 punti a 8 punti percentuali sul trimestre, quindi ne verrebbe intaccata la variazione del PIL annuale da 1 a 2 punti, o quindi potremmo chiudere invece che meno 9 o meno 10, meno 11, meno 12. Continuano le richieste invece alle banche del fondo di garanzia, 95 miliardi, 1.188.000 domande, di cui 951.000 fine 30.000 euro per 18 miliardi di euro complessivamente. I finanziamenti richiesti crescono stabilmente da settimane per circa 500 milioni di euro ogni giorno lavorativo. I dati dell'INPS, la cassa integrazione. Allora, l'INPS oggi ha fatto sapere che hanno ricevuto, sulla base di domande regolarmente presentate, i pagamenti di cassa integrazione 3.455.000 lavoratori su 3.472.136, quindi sono in attesa di essere pagati 17.000 lavoratori, ossia lo 0,4%. Sono 297.000 prestazioni, pari al 2% del totale delle domande pervenute. Di questi 17.000, 11.000 sono lavoratori che devono ricevere pagamenti su richieste pervenute tra maggio e settembre 5.000 sono quelle le cui prime richieste di cassa integrazione sono giunte a ottobre. Il ministro Catalfo nel frattempo ha detto che sta prevedendo delle alcune misure il governo da inserire in manovra. Nello specifico, a proposito della cassa integrazione, ieri il premier Conte ha detto che ci sono 5 miliardi per rifinanziare la cassa integrazione. L'intenzione è di finanziare un ulteriore intervento di cassa integrazione per circa 10 settimane, dando una copertura fino a fine gennaio. E ha aggiunto il ministro che prosegue il confronto con i sindacati. Poi ha confermato che nella legge di bilancio vi sarà una decontribuzione al 100% per 3 anni per chi assume donne disoccupate al sud e per coloro che assumono lavoratrici disoccupate da almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale. Quindi al sud puoi anche non essere disoccupata da 24 mesi, nel resto del territorio nazionale da almeno 24 mesi e il 100% di decontribuzione per i primi 3 anni. E sul momento economico del paese è intervenuto anche il presidente di Confindustria nell'assemblea degli industriali della Val d'Aosta. Ha detto: attenzione, avevamo già stimato un calo del PIL del 10%, che in numeri assoluti significa 180 miliardi meno alla nostra economia. Basti pensare che l'intero recovery vale 200 miliardi per rendersi conto del danno che avremo. Ascoltiamo. Tempi molto difficili, complessi, complicati per noi, per le nostre imprese, per noi imprenditori. Speravamo che tutto questo ormai fosse alle nostre spalle, speravamo che il rimbalzo che era venuto nel terzo trimestre della manifattura fosse il viatico per una ripresa dell'industria italiana, e purtroppo invece ci ritroviamo con dei dati molto molto difficili, quindi un momento veramente difficile per noi, per il paese. Noi già avevamo detto che molto probabilmente il paese avrebbe chiuso con un meno 10% del PIL quest'anno, e lo traduco in numeri assoluti perché molte volte le percentuali ci confondono. 10% del PIL vuol dire 180 miliardi in meno nella nostra economia, e se tutti affermiamo oggi che la grande occasione storica è il recovery fund per circa 200 miliardi, ci rendiamo conto che già il danno potrebbe essere pari al totale delle risorse che arriveranno nei prossimi anni per il recovery fund. E Bonomi ha poi criticato anche una selva di DPCM che non sono spesso molto chiari, e noi abbiamo spiegato agli imprenditori come districarsi nella selva dei DPCM, e poi ha commentato i dati, in parte quelli che ricordavo anch'io, sulla manifattura, che sta dimostrando la sua capacità di resilienza. Restando sempre in Italia, oggi Zingaretti, segretario del PD, è tornato sul MES. Ha detto: anche se il MES fosse solo un risparmio sugli interessi di 300 milioni all'anno, sarebbero 3 miliardi. Ecco perché noi, in 10 anni, ecco perché noi, a partire dal ministro Gualtieri, riteniamo utile accedere alla linea di credito del MES. Via le bandierine, si è sviluppata una discussione molto accesa, non fondata su basi reali. Il confronto non può essere ideologico, come pretenderebbe il Movimento a 5 Stelle, ha aggiunto Zingaretti. Non ci possono essere bandierine inamovibili di partito, e il governo presenti presto il piano per la sanità. Allora, adesso devo dare un insieme di dati che riguardano le terapie intensive in Italia, però erano non aggiornati agli ultimi dati. Perché lo dico? Perché su 6.628 posti di terapia intensiva in Italia, oggi il 15% occupato da pazienti Covid, percentuale che scende all'11% se si considerano anche gli altri 1660 posti letto attivabili con i ventilatori che sono già stati distribuiti alle regioni. Il dato è contenuto nel report settimanale del commissario Arcuri, da cui si capisce anche che la regione con la percentuale più alta di pazienti in terapia intensiva Covid rispetto ai posti a disposizione, qui bisogna capirsi. Il fatto che il 15% siano terapie intensive Covid non vuol dire che il restante 85% sia libera, perché noi sappiamo che mediamente in questo paese metà dei posti di terapia intensiva venivano occupati e vengono occupati da altre patologie. Quindi attenzione alle cifre, non vuol dire che solo il 15% è occupato da pazienti, e solo il 15% è occupato da pazienti Covid. Dicevo, le regioni, il tasso di occupazione più alto c'era l'Umbria con il 28%, poi la Campania col 21,7%, la Sardegna col 20%, in Lombardia la percentuale del 15,5%, il tasso più basso si registra in provincia di Trento con il 2% appena. Oggi in Fiera di Milano, l'ospedale Fiera di Milano, sono arrivati i primi 6 pazienti e la Regione Lombardia ha deciso la graduale riduzione dell'attività di chirurgia ordinaria, ossia quella delle operazioni programmate differibili, quindi non le urgenze. La riduzione varia secondo gli ospedali in base alla situazione di ciascuno, ma questo è uno dei problemi che cercavamo di significare a chi continua a scrivere sul fatto che stiamo facendo allarmismo inutile. Se tu riduci l'attività di chirurgia ordinaria, metti a repentaglio il sistema sanitario nazionale, la capacità di soddisfare i bisogni della popolazione, che non sono solo quelli di Covid. In Lombardia ci sono stati 5.000 nuovi casi e 300 ricoverati in più tra terapie intensive e non intensive. Adesso ho il dato, però, anche il nuovo record di positivi in Campania, 2.280, con un numero record di tamponi, quasi 16.000, e questo è importante. Però la percentuale dei contagi sui tamponi sale dal 12,8 al 14,5%, e questa è una percentuale, e quindi non c'entra quanti tamponi fai, e quanti positivi becchi per ogni 100 tamponi fatti, ed è salita da 12,8 al 14,5%. Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha detto che chiederà al governo un nuovo lockdown e che comunque, per quello che riguarda la Campania, si muoverà in autonomia. Vi anticipo che io comunicherò al governo non solo la mia richiesta di lockdown su tutta Italia, ma per quello che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto. Avevamo immaginato, ripeto, con l'ordinanza che entra in vigore oggi, una misura parziale, ma per i dati che abbiamo non basta più neanche questo. Dobbiamo decidere di chiudere tutto. Io dunque propongo lockdown per l'Italia, deciderà il governo nella sua responsabilità. Per la Campania faremo quello che riteniamo giusto per noi. E poi De Luca ha aggiunto: chiudiamo per 30-40 giorni, poi si vedrà, se chiudiamo oggi forse a Natale riapriamo, a breve avremo una situazione intasata nelle terapie intensive. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo sul meteo, la pubblicità, poi l'aggiornamento sulla chiusura di borsa e la poco invidiabile classifica del venerdì. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, e adesso arriviamo anche alla classifica. Stavo leggendo molti messaggi, devo chiarire una cosa, che chi scrive al 349-238-6666, allora non si è trasformato in Focus Pandemia, chiaramente i dati arrivano in questo periodo alle 17, 17.3, 17.7, noi diamo anche gli ultimi aggiornamenti, dopodiché attenzione, perché quando poi commentiamo i dati sull'andamento del settore e dei responsabili di acquisto del settore servizi rispetto al manifatturiero, è chiaro, dovrebbe essere chiaro a tutti, che si intrecciano le risposte a questa seconda ondata con l'andamento economico. Nel momento in cui l'ufficio parlamentare di bilancio stima in 1-2 punti percentuali, a seconda della severità delle prossime chiusure, il danno ulteriore al crollo del PIL italiano, è chiaro che questo è dovuto non dai dati che vediamo alla manifattura, ma al mondo dei servizi, perché le limitazioni di orario colpiscono, diciamo, quasi totalmente il mondo dei servizi, dalla ristorazione, ai bar, dai servizi turistici e quant'altro. Quindi, insomma, vediamo di capire perché ne parliamo. Avevo promesso invece i mercati finanziari. Allora, mercati finanziari che oggi chiudono tutti quasi in positivo, o meglio, chi ha chiuso in positivo: Parigi più 1%, Francoforte più 0,75%, Londra più 1,12%, Dow Jones invece meno 0,23%, FTSE MIB Milano più 0,84%, bene, Pirelli più 7,80%, Moncler più 4,08%, Exor più 2,5%, Banco BPM più 2%, Leonardo più 2%, come Snam e Unicredit, e poi CNH più 1,80% come A2A e Saipem e anche Eni. Diasori meno 2,40%, Telecom meno 2,20%, Unipol meno 2,20%, Inwit meno 0,70%, i titoli invece che sono, che hanno perso di più tra quelli a maggiore capitalizzazione. La giornata, insomma, vanno bene i titoli legati al manifatturiero per i dati che ricordavo in apertura, e questo lo si vede in parte anche a Milano. Allora, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, andiamo con la poco invidiabile classifica. La classifica della settimana. Allora, vedo già molti messaggi sulle dichiarazioni di De Luca, il ruolo delle regioni, e vi arriviamo anche in classifica. Oggi partiamo, come sempre, al quinto posto, bassi, ma neanche tanto bassi per alcuni versi. Allora, qui c'è un problema non di spreco in senso stretto, oddio, ma di opportunità, e mi riferisco all'assessore alla sanità piemontese, e si chiama Luigi Cardi, perché al di là dell'opportunità, è, io ho trovato veramente incredibile l'intervista che lui ha rilasciato, se non ricordo male, alla Stampa, al giornale La Stampa di Torino, perché cosa è successo? Lui, in piena emergenza Covid anche in Piemonte, si è preso una settimana per fare la luna di miele con sua moglie. Chiaramente questo è un po' pleonastico, diciamo. Ora, al di là del fatto che la domanda che uno si può fare è: ma te sembra il caso, nel momento in cui abbiamo una seconda ondata, di andare in luna di miele? Ma uno potrebbe anche andare più, diciamo, nel personale, non mi permetterò certo io, ma che luna di miele vuoi fare in sto periodo dove, capito, è quasi desolante? La luna di miele migliore te la fai a casa, forse. Gli alberghi sono mezzi vuoti, i ristoranti devono chiudere presto, non lo so. Comunque gli chiedono spiegazioni. Le è sembrato il caso con oltre 1000 nuovi casi di coronavirus al giorno in Piemonte? Lui risponde: sono stato via da lunedì al venerdì senza mai sconnettermi, non ho mai perso per un istante il polso della situazione, ho partecipato alle riunioni di giunta, alle videoconferenze, è stata una settimana di intenso smart working. E la giornalista chiede: ma scusi, sua moglie, visto che eravate in luna di miele, può immaginarsi che felicità. Allora io dico: ma perché devi trasformare una luna di miele in una luna di fiele? Ma la cosa più interessante sono l'insieme delle risposte che lui dà. La plancia di comando era sempre con me. Ha un'idea un po' strana della plancia di comando l'assessore, la plancia di comando, e se non voglio evocare il mitico Schettino, però insomma, o la plancia di comando ci stai oppure scopriamo che degli assessori alla sanità durante la seconda ondata di Covid in Piemonte non c'è bisogno della presenza fisica, perché se lui era sempre connesso e ha fatto quello che faceva anche prima, a sto punto uno potrebbe quasi dire: beh, vabbè, a sto punto resta in smart working, almeno contribuisce a non aumentare lo spostamento. La plancia di comando era sempre con me, ho partecipato da remoto a tutte le riunioni più importanti. Sarebbe preoccupante pensare che 5 giorni di smart working siano in grado di inficiare l'intero funzionamento della sanità piemontese. C'è una macchina rodata in grado di portare avanti il lavoro anche se l'assessore si allontana per qualche giorno. Allora, si è allontanato o non si è allontanato, assessore? Perché se si è allontanato, abbiamo scoperto che c'è una macchina che può andare avanti anche senza di lei, e come dice Marzullo, si faccia una domanda e si dia una risposta. Oppure, se invece non si è allontanato perché la plancia di comando era sempre con me, pensa che viaggio di nozze, di luna di miele, con lui sempre al telefono, si è portato in camera anche la plancia di comando, che è un po' difficile da estrarre in una nave, comunque in un aereo. Per cui delle due l'una, assessore, o la plancia di comando era sempre con lei, quindi lei non si è assentato, oppure la macchina è così rodata da non aver bisogno di lei se va via qualche giorno, anche di fronte a uno tsunami di epidemico mai visto prima in questo caso. Perché non si è mai vista una cosa del genere. Allora, e lui continua, mi scusi, ma lei non ha niente da rimproverarsi, chiede la giornalista. Ad esempio sui tamponi, il Ministero raccomandava al Piemonte una media di 11.000 test al giorno, fino a pochi giorni fa l'andamento era di soli 6.000. E lui risponde, sui tamponi abbiamo sempre applicato una politica di appropriatezza, fino a settembre eravamo tra le regioni con il più basso tasso di rischio, ma erano tutte le regioni basse. Ora i numeri sono saliti e siamo passati a fare 10.000 test al giorno. Se necessario possiamo arrivare a 15.000. Quindi per lui va tutto bene. Io a questo punto l'intervista, più che fare all'assessore, onestamente, l'avrei fatta direttamente alla moglie per capire se anche per lei era tutto bene, com'era vivere in due nel letto con la plancia di comando in mezzo, che cosa hanno fatto durante la luna di miele, visto che c'era sta plancia di comando con la moglie, un ménage à trois, tu, la moglie, la plancia di comando, oppure chiedere se veramente l'assessore poteva restare nella luna di miele, visto che tanto c'è una macchina rodata, come dice lui. E uno mi scrive, ma perché lei deve rompere le palle uno che va in viaggio di nozze? Ma io non ho detto che devo rompere le palle, io mi sono limitato a verificare se era opportuno in queste situazioni e a leggere l'intervista che a mio avviso si commenta da sola, perché vai. Andiamo alla quarta notizia, e qui veramente non so dove prenderla, perché continuiamo a parlare del Covid anche come un'opportunità, tra virgolette, per aumentare la digitalizzazione delle aziende, per nella pubblica amministrazione. Ministro Catafo, quante frasi ho sentito io in questi anni sulla pubblica amministrazione che deve digitalizzarsi, fare un salto, e così 4.0 sarà la rivoluzione digitale, il Covid ci lascerà tutti connessi. Beh, tutti sì, ma non proprio tutti, perché nel comune di Roma, e so che questa cosa ha così fatto divertire tra virgolette anche Simone Spezia qualche mattina fa, nel comune di Roma, nonostante vi siano 23.541 dipendenti di età media 52 anni, più del 60% sprovvisto di una laurea breve e 1.100 che hanno solo la terza media, ma questo lo dico non per dare un giudizio, per dire insomma com'è, diciamo, la struttura dei titoli di studio dei dipendenti del Comune di Roma. Ecco, nonostante 23.541 dipendenti, che cosa ha fatto il Comune di Roma? Con la centrale unica degli appalti di Roma Capitale e una determina che era il numero 434 del 2020, ha deciso di stanziare 635.700,56 euro per il servizio integrato di ausilio agli uffici, all'archiviazione e alle attività dedicate al pubblico. Vista così, insomma, sembra una cosa anche normale. No, sentite cosa dovranno fare i dipendenti delle società reclutate con il bando. Leggo testualmente: passeranno il turno tra la consegna copie di atti, la sistemazione di documenti, la distribuzione di moduli o di materiali di cancelleria, penne e block notes, e l'applicazione di etichette su documenti e affini inventariali. Altri ancora saranno indaffarati nello smistamento della corrispondenza, e qualcuno, non sto scherzando, dovrà tenere d'occhio il video citofono. Poi altri invece dovranno stare agli sportelli con i cittadini in coda per distribuire le numerazioni d'accesso. Cioè, fatemi capire, 635.000 euro per consegnare copie di atti, sistemare i documenti, ma il documento non se lo sistema il responsabile, no? Distribuire moduli o materiale da cancelleria, cioè, ma non si può uno alzare dei 23.000 dipendenti, alzare e prendersi da solo il block notice, appena, no? applicazione di etichette su documenti a fini inventariali. Cioè, ma i dipendenti in questione non possono applicare loro manualmente l'etichetta, non c'è bisogno di un grande sforzo. E poi qualcuno dovrà smistare la corrispondenza. E poi io vorrei essere quello che deve tenere d'occhio il videocitofono, perché lui sta lì, sembra un po' l'avvistatore di neve mitico della regione Friuli che portammo in classifica qualche anno fa. Tu stai lì e tieni d'occhio il videocitofono, anche perché essendo un videocitofono lo tieni d'occhio, mica d'orecchio, stai lì e lo guardi, poi apri o c'è qualcun altro che invece preme per aprire. No, voglio sapere, perché se uno tiene d'occhio non è detto che abbia l'incarico e la delega per aprire. Allora magari uno tiene d'occhio, l'altro preme il pulsante, a questo punto io metterei anche un terzo a chiedere chi è, così, voglio dire, la copertura è totale in questo periodo in cui obiettivamente l'emergenza è l'etichettatura e il videocitofono. E vorrei anche un po' di solidarietà nei confronti di chi deve piazzarsi davanti agli sportelli con i cittadini in coda con l'incombenza di distribuire la numerazione d'accesso e quindi il numerino. Ma i numerini, anche quando vai dall'alimentarista, non si stacca una mano? Boh, non ho capito. E questo perché molti dipendenti di categoria B sono stati riqualificati nel 2008. Non me ne frega niente, so solo che sono 625.000 euro per applicare etichette, guardare videocitofono, smistare corrispondenza e diffondere, diciamo, penne e block notes. Adesso invito molti ascoltatori a non continuare con la plancia di comando in mezzo al letto, perché è spigolosa. Il programma in questo momento è Focus Economia, non quello che segue. Andiamo al terzo posto. Oh, qui la cosa è molto breve. Stiamo, voglio dire, nella categoria falsi poveri, veri ladri, falsi poveri, veri pirla. Allora, qui siamo ad Imperia, ci sono 20 cittadini di Imperia che tra il 2019 e il 2020, simulando di essere in povertà, hanno percepito il reddito di cittadinanza. Perché dico che oltre che falsi poveri, veri ladri, è anche veri pirla? Perché i suddetti erano accaniti giocatori d'azzardo sulle piattaforme online e puntavano complessivamente centinaia di migliaia di euro. Li ha beccati la Guardia di Finanza, perché ha incrociato un insieme di dati dalle banche dati, e i 20 indagati erano tutti titolari di conti gioco online che alimentavano con ricariche di denaro in contanti o bonifico e giroconti direttamente dai propri conti correnti personali o da carte di credito ricaricabili. Quindi il GIP di Imperia ha emesso un decreto di sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite, che sono circa 160.000 euro complessivi. Rischiano una pena da 2 a 6 anni di reclusione per aver reso dichiarazioni false e aver attestato circostanze non veritiere per ottenere appunto il beneficio del reddito di cittadinanza. Tutte le posizioni illecite sono poi state segnalate all'INPS per la revoca del beneficio economico. Allora, andiamo al secondo posto. Il primo so che farà arrabbiare, ma il secondo lo risolviamo molto velocemente, molto velocemente. Allora, purtroppo non ho i nomi, li avrei dati volentieri i nomi, perché ci sono 15 società con il tema, l'area geografica è Milano, scusate, perché è il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Ci sono 15 società coinvolte, l'inchiesta è del PM Paolo Filippini, per un totale di 200.000 euro di contributi a fondo perduto previsti dal decreto rilancio, quelli che, abbiamo detto molte volte, quelli che hanno funzionato molto bene, ricorderete, li gestiva l'Agenzia delle Entrate, venivano dati ad aprile a chi avesse avuto un crollo del fatturato superiore al 33%, e veniva ripianato il 20% della differenza. Allora, di chi? Sono 200.000 euro, però il sequestro preventivo è stato, perché si ipotizza che sia molto più alto, per oltre 36 milioni di euro nei confronti di 88 società coinvolte a vario titolo nella commissione di reati tributari in materia di indebite compensazioni di imposta. Praticamente 36 milioni sono su 88 società coinvolte, però l'inchiesta si sta focalizzando sul modo in cui hanno utilizzato le somme incassate dalle 15 società. Ripeto, l'unica cosa che mi dispiace è non avere nomi e cognomi delle società, perché in un momento come questo andare a intascare e rubare è sempre un reato, ma rubare adesso, oh, dai, per favore. Andiamo, io so che questa cosa farà arrabbiare alcuni, ma interessa molto poco. Andiamo al primo posto in classifica. And the winner is... Allora, è un vincitore allargato, è un premio sostanzialmente a tutte, chi più chi meno, le regioni italiane, perché abbiamo raccontato in questi giorni come le regioni si sono mosse in ritardo anche a fronte del 1.300 milioni di euro versati dal governo per quello che riguardava gli ospedali e la struttura sanitaria del paese, e per quello che riguardava soprattutto l'acquisto di ventilatori e terapie anche subintensive. Il rimpallo l'abbiamo letto, però una cosa, e così mi ricollego anche con l'assessore piemontese, che in questo caso non c'entra, ma una cosa trovo inaccettabile. Abbiamo letto le dichiarazioni di De Luca, per carità, Fontana, non è un problema di destra o di sinistra. A me sembra abbastanza inequivocabile, però, che adesso tutto questo alzare l'asta e minacciare ulteriori chiusure, iniziare col chiudere le scuole, sia anche il risultato di un'incapacità delle regioni italiane, ripeto, chi più chi meno, adesso sto per dare la classifica delle regioni, nel predisporre piani non solo sanitari, ma anche e soprattutto sul trasporto locale. Le scuole non le stiamo chiudendo, le superiori in primis, perché ci sono chissà quanti focolai, le stiamo chiudendo perché si deve diminuire, lo ha chiarito bene oggi Fontana, il numero di persone che viaggiano negli orari di punta, perché mancano gli autobus. Così come faccio notare che in Lombardia, in Campania e in molte regioni è ormai diventato un incubo per i dirigenti scolastici cercare di mettersi in contatto con l'autorità sanitaria, perché non rispondono. Io mi sono chiesto qualche giorno fa, ma non si poteva assumere in questi mesi, luglio, agosto, settembre, qualche migliaio, magari anche, la butto lì, chi sta studiando infermeria al primo anno, per fare le telefonate. Cioè mancano le persone che chiamino, altro che tracciamento, manca qualcuno che risponda. Oh, allora, sentite questa. 300 milioni di euro li ha messi a disposizione nei mesi scorsi il Ministero dei Trasporti per affrontare l'emergenza in vista della riapertura delle scuole. Ok? Allora, sapete su 300 milioni di euro quanti ne sono stati spesi? 120 milioni. Un po' perché le regioni, alcune hanno detto di non averne effettivo bisogno, ma anche perché in altre situazioni c'è un problema di saturazione delle linee. Il risultato è che io non ho sentito fino a settembre nessun allarme vero sul trasporto locale, e che comunque 300 milioni di euro messi a disposizione, nemmeno la metà sono stati utilizzati. Allora, chi è corso ai ripari? Ci sono i bus turistici o gli NCC presi a noleggio a partire dal 14 settembre, in tutto poco più di 1.600 mezzi a fronte dei 40.000 in servizio nelle 144 aziende locali. L'Emilia Romagna ha attivato 206 bus turistici NCC, il Veneto 184, tutti turistici, le Marche 151, di cui 118 turistici, la Toscana 200, la Campania 350, di cui 290 già in esercizio. La Lombardia ha aggiunto 80 autobus turistici e conta di impegnare 11 milioni di euro entro fine anno. Il Lazio ha aggiunto 103 autobus e vorrebbe stanziare 10 milioni. Altre regioni, la Liguria, hanno fatto sapere di non registrare criticità. Ancora, ci sono tutti i dati sull'affollamento. Io li ho letti con attenzione, non ho trovato nulla di nuovo. È chiaro che l'affollamento, leggo testualmente, un pendolare su quattro esce di casa prima delle 7 di mattina e oltre la metà tra le 7.30 e le 8. E che cavolo, lo sapevamo, no? Basta uscire a Milano, a Torino, a Napoli, a Roma tra le 7 e mezza e le 8 e vedere come sono le strade tangenziali, e si scopre che entro le 8 più dell'80% delle persone che vanno a scuola o al lavoro ha già intrapreso il viaggio. Ma va? Io pensavo che arrivassero a scuola o al lavoro verso le 8:15, 9:30, 10, un quarto, quando cavolo gli pare. Allora, chi si reca al lavoro esce di casa prima degli studenti, bene, un quarto dei maschi occupati esce prima delle 6:30. Una quota più che doppia rispetto agli studenti, per i quali l'orario di punta al mattino si concentra intorno alle 7:30, te credo, le scuole tendono a aprire intorno alle 8. Le donne occupate escono più tardi, sia rispetto agli studenti che agli occupati maschi, la metà entro le 7:30, oltre il 40% tra le 8:30 e le 9:30. Tutto molto interessante, tutto molto innovativo. Faccio solo notare che tutto non è servito a una mazza, perché se tu a ottobre, a 20 ottobre, avevi speso solo 120 milioni su 300 milioni per gli autobus e adesso in fretta e furia ti stai mettendo a prendere autobus privati, NCC, non si capisce, nel frattempo chiudi le scuole, questo è il fallimento di qualunque pianificazione sul trasporto locale. Poi qualcuno mi contesta che la Liguria non abbia criticità. È il fallimento di qualunque pianificazione. Si può dare la colpa al governo di molte cose, ma attenzione, si chiama trasporto pubblico locale perché è di gestione principalmente degli enti locali, a partire dalle regioni, a cui do un grandissimo applauso a tutte. Allora, fra poco presento anche la startup, mi calmo un attimo, andiamo intanto sul GR24. Sì, hanno avuto 6 mesi per i trasporti, vabbè, lo so, cosa devo dirvi? Ma era chiaro che nessuno ci ha pensato, adesso tutti quanti a far minacce, video, tutti quanti, poi De Luca, vabbè, non voglio parlare di De Luca adesso, andiamo sul GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Noi di Martina e oltre 500.000 di aziende professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Banca IFIS, ti supportiamo in ogni progetto per far crescere e competere il tuo business. Ma c'è solo un modo per farlo bene. Essere sempre più vicini. Scopri le nostre soluzioni su bancaifis.it. Banca IFIS, il valore di crescere insieme. Hai la partita IVA? Scegli Timonica Business per commercianti e professionisti con partita IVA. Con la fibra e il mobile di Tim hai l'assistenza tecnica in un giorno, la sala riunioni virtuale di Teamwork Smart inclusa per 6 mesi e il raddoppio dei giga su tutte le tue linee mobili. Tutto insieme in un'unica soluzione con Timonica Business. Scopri tutti i vantaggi. Vieni nei negozi Tim o chiama il 191. Per info su copertura, condizioni e costi vai su teambusiness.it. Adesioni entro il 30 novembre. Non vedo l'ora di essere tra le onde con il surf. Ma perché non andiamo in montagna invece? Ma dai, mare tutta la vita. Ma pensa all'aria fresca, alle passeggiate. E tu pensa al sole, all'acqua, alle cene di pesce. Non mi piace il pesce. Mi fa schifo passeggiare. Compagnia sbagliata? Per la polizza auto e moto, segugio.it trova la compagnia giusta per te e ti fa risparmiare. Segugio.it trova la compagnia giusta. Sono Loretta Goggi e non credo alle superstizioni. Credo nel futuro della ricerca. Sono sicura che potrà migliorare la vita delle persone che amo. Per questo ho disposto un lascito testamentario. Pensaci anche tu. La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro raccoglie donazioni e lasciti testamentari per finanziare la ricerca sui tumori. Aiutaci a cancellare il cancro. Lascia il tuo segno. Informati su AIRC.it. Azimut PIRBOX eleva al cubo i vantaggi fiscali della normativa PIR Alternative. Scopri come su azimut.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario Azimut. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berigioni. Adesso, come sempre, dopo la classifica, la startup, per dare un po' così di ottimismo, quindi le chiamiamo sempre le aziende che si rimboccano le maniche, chi si è messo in discussione. E quindi oggi saluto Davide Ballotta, amministratore delegato di Keeply. Buonasera Ballotta. Buonasera a lei Berigioni e a tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa fa Keeply, quando l'avete fondata, quanto fatturate, quanti siete, chi vi ha aiutato, quanti anni ha, un fiorino. Allora, comincio da quanti anni ho, 34 anni. Keeply parte da un assunto che è abbastanza semplice ma sconosciuto a molti consumatori. Il 90% dei materassi che sono venduti in Italia e in Europa sono fatti di una materia che si chiama poliuretano, che è un derivato del petrolio totalmente sintetico. Questo è l'assunto di base su cui parte Keeply. Keeply propone un materasso naturale fatto a base di latice naturale, che è una materia totalmente vegetale. Il nostro materasso è prodotto in Italia. Siamo partiti nel 2017 proprio in Italia per poi svilupparci in vari mercati europei. Oggi il nostro mercato più importante è la Francia. La società è partita da zero, diciamo, con i nostri risparmi, e oggi siamo arrivati a un fatturato di 10 milioni con 20 dipendenti. La maggior parte dei nostri dipendenti è nella sede di Parigi, e la produzione però è tutta italiana, viene fatta in Lombardia, a Caronno. Senta, lei intanto è una startup, ma su un settore che una volta avremmo chiamato old economy, perché insomma il materasso è abbastanza old come economy. Ma lei cosa faceva prima? Allora, io prima lavoravo per un motore di ricerca francese che si chiama Quant. E in realtà il nostro approccio è approcciare un settore che è molto vecchio, diciamo, come stile, come modo, come commercializzazione, e lavorare moltissimo all'online. Noi lavoriamo con un modello che si chiama DNVB, che è un modello americano, sostanzialmente vuol dire Digital Vertical Brand. Sostanzialmente è un modello che permette di vendere direttamente ai consumatori via internet, creando una marca che è nativa digitale, vuol dire una marca che non esiste al di fuori del mondo internet. Cioè voi avete negozi, questo... Allora, noi non abbiamo intermediari, quindi adesso abbiamo appena aperto un negozio proprio in pieno Covid, quindi a Parigi, in centro a Parigi, però è un nostro negozio, nel senso che è un negozio della nostra marca, quindi è un negozio che è totalmente nostro. Non abbiamo nessun intermediario né rivenditori, quindi tutto passa attraverso... Senta, per mia curiosità, come sta andando il negozio di Parigi e le vendite? Perché immagino che in questo periodo, almeno nel settore dei materassi, di tutto ciò che ha a che fare con la casa, non dovrebbe essere così toccato, diciamo, come altri settori, penso ai servizi. Anzi, magari un po' perché deve stare... Mi dica. Allora, diciamo che è sorprendente come risultato, perché non le nascondo che noi abbiamo firmato il nostro contratto di affitto proprio a gennaio, quindi abbiamo fatto i lavori praticamente durante il lockdown. Diciamo che eravamo un po' preoccupati per i risultati che il negozio avrebbe avuto e soprattutto sulla sua rentabilità, nel senso che comunque pagando un affitto alto volevamo vedere appunto se i risultati si potevano avere anche con la pandemia. In realtà quello che noi osserviamo è che i risultati sono sopra ogni aspettativa. Nel nostro negozio di Parigi abbiamo già dei risultati che sono, diciamo che noi abbiamo un business plan su 2 anni, siamo praticamente a un anno e mezzo di risultato dopo appena 4-5 mesi di attività. Quindi è veramente sorprendente. Magari uno dovendo stare di più a casa, non dico che dorma di più, ma magari usa il materasso, ma anche qui non mi voglio spingere su altre analisi, dovendo stare in casa per il lockdown. E un'ultima domanda, chi vi ha aiutato? Nel senso, avete avuto finanziamenti, crowdfunding? Noi dall'inizio abbiamo immesso dei fondi, diciamo, molto bassi, 50.000 euro all'inizio dell'attività. L'attività da subito è stata redditizia, quindi non abbiamo dovuto immediatamente rivolgersi a degli investitori. L'abbiamo fatto dopo circa un anno, abbiamo fatto un aumento di capitale di 2 milioni con il fondo Alter Equity, che è un fondo francese. Però diciamo che l'abbiamo fatto più che altro per poterci permettere di prendere dei rischi più elevati di quelli che ci saremmo permessi con i nostri fondi, e quindi per darci una spinta, un'accelerazione. Però avremmo potuto, il nostro modello è un modello di redditività un po' old style che non prevede per forza l'aumento di capitale a tutti i costi, per cercare di aumentare a tutti i costi il fatturato, magari lesinando su quelli che sono i margini. Un'ultima domanda, i dipendenti quanti sono? 20 mi diceva adesso? Sì, 20 dipendenti. E come sono assunti? Tutti a tempo indeterminato, non abbiamo nessun altro contratto, anche perché assumendo in Francia comunque il contratto più frequente è il contratto SDI a tempo indeterminato, quindi sono tutti i contratti a tempo indeterminato. Allora, in bocca al lupo a lei e ai 20 dipendenti. La produzione, ripeto, avviene all'80% in Italia, e grazie anche a Davide Ballotta, amministratore delegato di Keepli. Allora, adesso andiamo sul traffico. Do la chiusura di borsa: più 1,1% Milano, più 1,20 Parigi, più 0,80 Francoforte, più 1,30 Londra, Dow Jones meno 0,40. Si conferma bene il settore industriale, grazie anche ai dati arrivati alla Germania sulla fiducia, sull'orientamento dei responsabili di acquisti. Pirelli più 8,60, Moncler più 4,40, Exor più 2,50, Leonardo più 2,30, Banco BPM più 2, Italgas più 2, come Snam Unicredit, Snam e Unicredit CNH più 1,80%. Invece il fronte opposto vede Diasorin perdere 2,40, Unipol il 2,30, Telecom Italia l'1,60%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il traffico, e poi parliamo della manovra con l'economista Piga. Focus Economia. Allora, la manovra economica presentata in questa settimana e anche le ultime prospettive. Citavo in apertura del programma l'ufficio parlamentare di bilancio, che ha detto: attenzione, dopo il più 12% del PIL nel terzo trimestre rispetto al secondo, c'è il rischio che con questa seconda ondata di Covid il quarto trimestre possa chiudere appena positivo, e comunque una nuova ondata di contagi, ma non tanto di contagi, delle chiusure, dei coprifuoco, del lockdown che determinerebbe, potrebbero far calare ulteriormente il PIL quest'anno tra 1 o 2 punti percentuali. La manovra, l'abbiamo ricordata, è una manovra che sostanzialmente si basa per 24 miliardi sulla manovra, poi 15 miliardi di fondi europei, quindi un provvedimento complessivamente a 39 miliardi, e dove si stima un PIL quest'anno meno 9%, l'anno prossimo più 6 e più 3,8 nel 2022, quindi recupero solo nel 2022. Abbiamo ricordato i vari punti: 4 miliardi di euro per la sanità, l'assegno unico per le famiglie che partirà dal luglio 2021, anche qui vale a regime 6 miliardi, ma dovrebbe, partendo metà anno, dovrebbe drenare tra virgolette solo 3 miliardi per il 2021. La fiscalità di vantaggio al sud vale 13 miliardi e mezzo nel triennio 2021-2023, cuneo fiscale 1 miliardo e 8 in più per uno stanziamento annuale complessivo di 7 miliardi, e viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28 mila euro. Vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che include anche l'assegno unico alle famiglie. Azzerati per 3 anni i contributi per l'assunzione degli under 35, e poi sappiamo che per le donne disoccupate al sud vale, indipendentemente dal periodo di disoccupazione, per le donne in generale, invece non nel mezzogiorno, dopo 24 mesi di disoccupazione, se viene assunta, a 3 anni di decontribuzione al 100%. E poi 4 miliardi di euro al sostegno dei settori maggiormente colpiti dal Covid, prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo di Garanzia PMI e da SACE. E ancora l'internazionalizzazione delle imprese, 1,5 miliardi, fondi aggiuntivi per il trasporto pubblico, di cui abbiamo già parlato, ma anche scuola, università e cultura, per un totale di 6 miliardi di cui 1,2 miliardi per l'assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno, 1,5 miliardi per l'edilizia scolastica e 500 milioni di euro l'anno per il diritto allo studio. Ultima nota, 2,4 miliardi l'edilizia universitaria e 600 milioni di euro per l'occupazione nei settori del cinema e della cultura. Allora, saluto per averci raggiunto in collegamento un nostro ospite di cui apprezzo la schiettezza, già ospite altre volte, professor Gustavo Piga, buonasera innanzitutto. Buonasera, dottor Barisone, come sta? Abbastanza bene, grazie. Lei, tutto bene? Abbastanza bene, sì, grazie mille. Ecco, è abbastanza, mi sembra, come dicono i ragazzi, è abbastanza. Allora, senta professore, perché lei in un articolo, in un commento su Sole 24 Ore di ieri ha definito questa manovra addirittura non abbastanza espansiva, ma l'ha definita austera, che impedisce una crescita solida? Cos'è che non la convince nelle misure che ho appena ricordato? Allora, le misure che lei ha ricordato sono espansive rispetto a quanto dichiarato ad aprile da questo governo nel documento di economia e finanza. Ricordiamoci che questi numeri escono da una nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che viene a cambiare quanto il governo aveva dichiarato ad aprile. Infatti ad aprile il governo aveva detto: io nel 2021 farò un deficit del 5,7%, okay? Adesso dicono oggi faccio un deficit del 7% di PIL. Quindi il governo effettivamente rispetto ad aprile ha dichiarato che farà minori entrate o maggiori spese dell'1,3% di prodotto interno lordo, che è il numero che ha citato in conferenza stampa effettivamente Gualtieri. Ma dobbiamo ovviamente, per capire se questo governo sta proponendo al paese una manovra espansiva o restrittiva, andare a vedere ovviamente cosa ha detto a aprile. E poi ci aggiungiamo sopra quello che ha detto a aprile il cambiamento. E quello che scopriamo è che a aprile il nostro governo è stato terribilmente restrittivo, e quello che ha fatto con le nuove dichiarazioni recenti di queste ultime settimane nella nota di aggiornamento è semplicemente di dire: sarò un po' meno restrittivo di quanto non ho detto ad aprile. Lei mi dirà: ma da dove li tiri fuori questi numeri? Li tiro fuori dal documento di aprile, ma anche di settembre, glieli vado a leggere per essere sicuri. L'indebitamento di quest'anno è dell'11% del prodotto interno lordo. Prova provata che questo governo quest'anno è andato a supporto dell'economia. Quindi non stiamo parlando di quest'anno, perché ricordiamoci che la manovra parla del futuro, parla del 21, 2021, 22, 23. Certo. Quindi io non metto in dubbio che per fortuna e con intelligenza questo governo quest'anno è venuto a supporto dell'economia come doveva venire a supporto dell'economia. Ma mi preoccupa tantissimo quello che ha promesso al paese o ha minacciato per il paese per i prossimi 3 anni. Se oggi è 11, promette il governo testualmente, l'anno prossimo, nel 2021, sarà del 7. Si ricorda che avevamo detto che lo portava sì, da 5. Sì, scusi, Piga, domanda. Il 7% di deficit non potrebbe, sul PIL, non potrebbe essere dovuto al fatto che crescerà molto il PIL, il denominatore? Allora, brevissimo, allora io finisco l'argomento e poi andiamo a toccare questo punto importantissimo. Le fa 11 nel 2020, 7 nel 2021, 4,7 nel 2022, 3% nel 2023, un calo del deficit del 7%. Se lei prende, leva le spese per interessi, solo il saldo primario, la differenza tra spese senza interessi e entrate, passiamo da 120 miliardi di disavanzo primario di quest'anno al pareggio di bilancio nel 2023, 120 miliardi di aumenti netti di entrate rispetto a spese. Giustamente il dottor Barisoni mi dice: attento però, perché dentro questo miglioramento dei conti pubblici c'è per esempio il fatto che l'economia riprende. Ricordiamoci comunque che è una ripresa più 6, più 3% di PIL nel 21-22, quando nel 2020 abbiamo perso il 9, quindi mettiamo le cose in prospettiva. Non è che questa crescita pazzesca che viene, no? È un recupero, è un rimbalzo, benissimo, ma la domanda che ci dobbiamo porre noi era: poteva questo rimbalzo essere molto più grande? Allora, torniamo al suo punto. Certo che le entrate aumentano grazie al fatto che riprendiamo una parte dei nostri redditi, perché speriamo che vada tutto bene, le entrate risalgono. E allora qui cosa si usa? Si usa un altro numero complicatissimo che sta sempre nella stessa tabella, che si chiama indebitamento netto strutturale, che corregge per questi effetti di ciclo. Se andiamo a leggere questo numero, il deficit strutturale, che oggi è 6,4, scenderà 5,7 l'anno prossimo, 4,7 tra 2 anni, 3,5 tra 3 anni, scenderà cioè di 3% di PIL in 3 anni. Mm-hmm, quindi capito. Vuol dire che ogni anno questo governo promette al paese, esogenamente, cioè di sua spontanea volontà, non perché le cose stanno migliorando, una manovra di 16 miliardi netti. La domanda chiave che deve venire è: come mai il governo si sente obbligato a fare questo? Si sente obbligato a fare questo perché fa parte, lo sappiamo, del raccordo del recovery, dove nel recovery c'è, cioè, con una mano l'Europa ti dà, e cosa ti dà? Ti dà uno, una cosa importantissima, che sono i trasferimenti a fondo perduto, e quelli aiuteranno sicuramente nella crescita, purché siano spesi bene, una cosa che, se abbiamo tempo, poi ci torniamo a parlarne. Poi ti dà dei prestiti, e qui arriva l'altro punto interessante. Cosa ci fa questo governo con quei prestiti del recovery? Dentro i numeri della manovra c'è scritto chiaramente che con questi prestiti il governo non ci farà nulla, cioè ci andrà a fare, meglio dirlo, delle cose che già prevedeva di fare con i soldi che prendeva per conto suo con i BTP e i bond sul mercato, sostituisce le emissioni nazionali con le emissioni di bond europei, quindi risparmia la spesa per interessi, ma non ci fa maggiori investimenti. E perché non ce la fa? Per la ragione che dicevamo prima, perché ha paura di avere un debito, un disavanzo troppo alti, per poi non poter entrare al bilancio del paese. E che finita la crisi poi questo venga giudicato. Detta così, però, Piga, non sarebbe neanche sbagliato non andare con un debito troppo alto. Le chiedo una cosa però su questo. Ammesso che il governo poi punti a semplicemente sostituire emissioni obbligazionarie con prestiti europei, e quindi denaro fresco sarebbero solo gli 80 miliardi a fondo perduto, a cui andrebbero levate comunque quelle che noi trasferiamo all'Europa. A me sembra una cosa in questa manovra, e vorrei un suo commento rapido su questo, che al di là delle iniziative singole che ricordavo, che vanno bene, l'assegno unico, rimodulazione fiscale, cassa integrazione, sanità, io non ho capito da dove arrivano gli investimenti infrastrutturali, a cui tengo moltissimo. Cioè, ho visto il piano del governo, le 30 opere prioritarie, il DL Italia Veloce, il commissariamento delle opere, ma lei ha visto la voce soldi per infrastrutture, autostrade, digitalizzazione, alta velocità, trasporto ferroviario locale? Bravissimo. Allora, intanto, uno, lei ha fatto un listone di cose previste in quel più 1 e 3 di settembre e non ha mai detto la parola investimenti pubblici, perché non c'erano. Allora cosa devo fare? Andare a vedere quanti investimenti pubblici in più hanno messo ad aprile, perché a settembre non ne hanno messi, e ad aprile c'è scritto, e c'è scritto, le giuro, dottor Barisoni, più 3 miliardi nel 2021, più 3 miliardi nel 2022, meno 1 miliardo nel 2023, 5 miliardi. Allora lei mi dice, ma allora dove stanno questi investimenti pubblici? L'unico luogo dove stanno sicuramente nei trasferimenti a fondo perduto, quelli andranno, sono per forza dedicati, no? Ma la domanda che mi viene a me spontanea è chiedermi, ma li faranno bene? Perché le posso dire, qui chiudo, che quello che io ho visto in quel documento di tutti i progetti che sono arrivati al Ministero degli Affari Europei, ma povera Mendola, sono una marea di piccoli progetti scritti da burocrati invece che grandi progetti scritti dal primo ministro Conte, come fece Franklin Delano Roosevelt quando disse si fa la più grande rete di autostrade del nostro paese. No, ci sono una marea, quindi si è deciso non di centralizzare la decisione e prendere una scelta di pochi investimenti ma importanti per il paese. Allora è chiaro, io attendo il governo al varco, lo dico senza minaccia, però perché poi i dettagli li vogliamo vedere sull'utilizzo dei fondi infrastrutturali e da questo punto di vista anche sulla parte quanto verrà destinato, e continuo a chiedere una cabina di regia unica, un commissariamento per le opere principali, quindi evitiamo. Poi vanno bene anche le piccole opere, per carità, però i grandi piani infrastrutturali devono essere finanziati, deve essere chiaro chi ne risponde. Grazie anche al professor Gustavo Piga. A me non resta che augurare a tutti voi in ascolto un buon fine settimana, ringraziare come sempre Maria Sole Lisciandro per l'assistenza in redazione e anche Danilo Di Trani, e augurare, dicevo, voi un buon fine settimana. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.